2024. 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, questo è 2024, il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Ogni settimana cerchiamo di domandarci e soprattutto con l'aiuto dei nostri esperti raccontare come la tecnologia ci sta cambiando la vita. E non solo la vita, anche il mondo del lavoro in maniera molto forte, molto decisa, e vedrete quello che succederà nei prossimi anni. Si dice spesso che la tecnologia ha una accelerazione non costante, ma che si moltiplica con il passare del tempo, che aumenta con il passare del tempo. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci trovate su Twitter, su Facebook, potete comunicare con noi attraverso questi canali. Oggi parleremo di Digital Radio, della radio digitale, perché anche adesso, mentre stiamo parlando, Radio 24, ma buona parte delle radio nazionali, stanno raggiungendo almeno 65 persone su 100 in Italia, quindi il 65% della popolazione, con trasmissioni digitali terrestri, un po' come il digitale terrestre televisivo, ma stiamo parlando di radio, quindi è un digitale terrestre radiofonico. Per il momento non è previsto lo spegnimento delle frequenze FM, che rimarranno accese per ancora molto tempo, ma sicuramente questa è una novità degli ultimi tempi della radio. Negli ultimi mesi c'è stata un'accelerazione, quindi tutte le radio stanno accendendo nuovi impianti, quindi il servizio è partito con determinazione anche nel nostro paese. Ne parleremo tra poco. Adesso parliamo di una applicazione nuova che è stata lanciata. Però partiamo da due città, Roma e Milano. Milano e Roma. Allora, sapete che esistono servizi di car sharing, quindi uno può prendere un'automobile per qualche minuto, per qualche ora, pagare per il consumo che uno ne fa. Quindi tengo l'automobile per 30 minuti e pago per quei 30 minuti. In entrambe le città esiste un servizio di car sharing che è completamente gestito via app. Si chiama Enjoy, è stato lanciato dall'ENI, un servizio molto interessante, a me piace molto. Ci sono in entrambe le città centinaia di 500 di automobili, 500 rosse, che possono appunto essere prenotate con questa applicazione. Uno si iscrive via app, tutto paperless, senza carta, sullo smartphone, quindi inserisce i propri dati della patente, la carta di credito, eccetera, eccetera. Può prenotare e pagare l'uso dell'auto in città, tutto via smartphone. E la cosa più interessante, più affascinante da un certo punto di vista, io mi emoziono quando succede questa cosa, è che si apre l'automobile con l'applicazione sullo smartphone. Quindi l'auto è connessa alla rete, ovviamente quando raggiungiamo l'automobile che vogliamo prendere, schiacciamo sullo smartphone apri l'automobile e lei si apre. Allora, c'è chi dice che lo smartphone sta diventando il telecomando della nostra vita e saranno sempre più i servizi che transiteranno via smartphone per connettere il mondo virtuale con il mondo fisico. Quello dell'automobile che si apre è un esempio. Però da questa settimana c'è una novità emblematica di questo cambiamento e di quello che sta succedendo. La catena di hotel americana Starwood ha lanciato un servizio che si chiama Keyless, senza chiavi. Con l'app è possibile prenotare una stanza di hotel, ricevere un codice con il numero di stanza, andare direttamente alla stanza che ci è stata assegnata e aprirla con il Bluetooth e con l'applicazione del telefono. Quindi senza passare dalla reception classica, senza fare la registrazione classica. Allora, per ora sono 10 gli hotel abilitati con questo servizio in tutto il mondo, quindi non solo negli Stati Uniti, ma presto saranno 30.000 le stanze in cui si potrà accedere con lo smartphone. In 150 hotel del mondo, delle insegne W, quindi W, Element e Aloft, che sono tutti marchi insegne della Starwood americana. Però stessa cosa sta facendo la Hilton: 600.000 stanze in tutte le catene del gruppo saranno abilitate al check-in con smartphone il prossimo anno. Naturalmente tra i vantaggi, e sono tanti i vantaggi, soprattutto per la catena, è che automaticamente un cliente è anche registrato al programma fedeltà dell'albergo, perché per utilizzare questa app bisogna essere un cliente registrato al servizio fedeltà, quindi per accumulare le miglia, ma poi naturalmente è un servizio che gli alberghi utilizzano per mandarci offerte, per comunicare con noi. Adesso alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Iniziamo da WhatsApp. Si sta parlando molto della novità che è stata lanciata, anche se è una novità abbastanza poco rilevante, però. Allora, WhatsApp ha aggiornato l'applicazione con una novità che si allinea, che allinea il servizio a quasi tutti gli altri sistemi di messaggistica. Alla lettura del messaggio da parte del nostro interlocutore apparirà un segno di spunta blu. Allora, segno verde, il messaggio è stato recapitato, segno blu, il messaggio è stato letto. Quindi quando siamo in attesa di capire se, quando abbiamo scritto un messaggio dall'altra parte, è stato letto, e a volte diciamo, ma l'avranno letto, mi risponderanno oppure no? Beh, con il segno blu il significato è molto chiaro, il messaggio è stato letto. Digital News. Visto che le applicazioni di messaggistica si sono diffuse così tanto, parliamo di milioni di persone che hanno installato non solo WhatsApp ma molte altre applicazioni, la Electronic Frontier Foundation, un'associazione americana che si batte per le libertà in rete, per la privacy, eccetera, eccetera, ha fatto un'analisi sulla sicurezza di questi servizi, soprattutto valutando la crittografia utilizzata per proteggere le comunicazioni. Però bene, oppure male, tutti i principali servizi, quelli più popolari, non passano a pieni voti l'esame e solo le applicazioni specializzate garantiscono una comunicazione protetta, riservata e sicura. Si tratta di, quindi allora sono stati bocciati, dipende insomma a che livello, WhatsApp, Skype, BBM, quindi BlackBerry Messenger, ma tutte le altre applicazioni più famose. Allora, hanno passato completamente a pieni voti l'esame solo applicazioni del tipo Silent Phone, Signal, Text Secure, CryptoCat. Alcune di queste sono gratuite, una costa 99 centesimi, quindi sostanzialmente stiamo parlando di servizi sicuri, protetti, che costano molto poco. Oppure sono gratis. Digital News. A proposito dei privacy, anche il Garante è intervenuto sull'uso delle applicazioni che sempre più vengono usate per controllare il luogo dove si trova un dipendente. Secondo l'autorità, un datore di lavoro può installare un'applicazione che rivela la localizzazione geografica dei dipendenti, a condizioni però che siano adottate adeguate cautele a protezione della vita privata dei lavoratori e che effettivamente l'applicazione serva per migliorare il servizio ai clienti. Il lavoratore deve essere messo a conoscenza dell'applicazione e sapere quando è attiva. Ci sono poi altre pratiche burocratiche da completare. Comunque, sostanzialmente, il Garante ha dato il via libera all'uso di questo tipo di applicazioni. Ne abbiamo parlato anche recentemente, abbiamo fatto un esempio 2024, ma ce ne saranno sempre di più. Digital News. TIM ha lanciato in 60 comuni italiani la tecnologia LTE Advanced, quindi si tratta di un'evoluzione dell'LTE del 4G, che permette velocità di connessione mobile a 180 megabits al secondo. Al momento l'unico terminale che supporta questa tecnologia disponibile in Italia è il Galaxy Note 4, ma ne arriveranno altri. Digital News. Secondo l'Osservatorio Agenda Digitale della School of Management del Politecnico di Milano, l'attuazione dell'agenda digitale in Italia è in forte ritardo, e questo lo sapevamo anche noi, però ci hanno dato qualche numero. Dal 2012 a oggi il governo italiano ha adottato solo 18 dei 53 provvedimenti attuativi tra regolamenti e regole tecniche previsti per il raggiungimento degli obiettivi dell'agenda digitale. Su alcuni di questi si accumulano oltre 600 giorni di ritardo. Digital News. Dopo aver fatto un accordo con Samsung sull'uso dei brevetti ad inizio anno, Google ne ha annunciato uno anche con LG. Si tratta di un'intesa che garantisce l'accesso reciproco al patrimonio di brevetti di oggi, ma anche quelli che verranno registrati nei prossimi 10 anni. Digital News. Un'ultima notizia riguarda Amazon, che porta anche in Italia il servizio Kindle Unlimited. Si pagano 10 euro al mese per poter leggere senza limiti un catalogo di 700.000 titoli, di cui 15.000 in italiano. È sostanzialmente una sorta di Spotify o Netflix del libro, col quale si paga l'accesso ai contenuti, l'uso dei contenuti e non il possesso. Naturalmente si scarica un libro, lo si può leggere, se ne possono leggere tantissimi, poi quando l'abbonamento non viene più pagato, quindi decidiamo di sospendere l'abbonamento, tutti questi libri scompaiono, invece se li compriamo rimangono sul nostro terminale. Però la considerazione è probabilmente molti leggono e poi non lo rileggono dopo 3-4 mesi o nel giro di un anno. Vedremo se anche Kobo e Tolino, queste due alternative al Kindle di Amazon, si adegueranno a questa tendenza che abbiamo già visto nel mondo della musica e nel mondo dei film, del cinema online. Se siete curiosi e avete voglia di sperimentare una delle nuove frontiere della tecnologia, potreste provare Skype Translator da un computer o da un tablet basato su Windows 8.1. Vi dovete registrare sul sito di Microsoft, sul sito Skype Translator, e poi è possibile provare questo sistema di traduzione in tempo reale che funziona anche con la lingua italiana. Quindi voi parlate ad un altro interlocutore, come si fa con Skype, il sistema traduce al vostro interlocutore e viceversa. Quindi potete parlare in italiano magari ad un inglese, la macchina traduce e poi lui dall'inglese parla a voi, la macchina traduce in italiano. Molto interessante, vedremo poi questo servizio se e quando sarà lanciato, ma sicuramente sarà lanciato a breve anche in tutto il mondo, e dalla preview, dalla sperimentazione diventerà un servizio commerciale a tutti gli effetti. Adesso parliamo di una novità che sta crescendo, si sta diffondendo in questi mesi, e riguarda le automobili e anche il mondo delle assicurazioni. Stiamo parlando di un servizio basato su una videocamera che si installa su un'automobile, e fin qui non ci sono grandi novità, perché ci sono da tempo videocamere che si possono installare sull'automobile per riprendere quello che succede, ma stanno nascendo servizi, e noi oggi parliamo di uno di questi servizi. Stanno nascendo servizi che vengono messi a disposizione delle assicurazioni, quindi poi naturalmente anche dei clienti finali, per registrare quello che accade nel momento dell'incidente. Tutto ciò è reso possibile dalla tecnologia, ma soprattutto da un sistema. Mettendo insieme tanti pezzi di tecnologia si può erogare un servizio, e così facendo eliminare o comunque ridurre di molto tutte le truffe che sono legate al mondo delle assicurazioni, o comunque in generale tutto ciò serve per capire meglio quello che è successo durante un incidente. Se ci sono delle immagini, quelle raccontano precisamente quello che accade, al di là delle testimonianze, che a volte non sono nemmeno veritiere, se non addirittura false. Ne abbiamo parlato con Roberto Balduini, che è il direttore tecnico di OctoCam, una società del gruppo Octo Telematics, famoso in Italia per aver installato su milioni di autoveicoli delle scatole nere a bordo delle auto con una SIM che comunicano dati ad una centrale. Adesso il passo successivo è quello di installare videocamere per fare un nuovo servizio.